Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Nel nostro programma abbiamo affrontato più volte storie di assassini, di serial killer, fatti di sangue, racconti raccapriccianti che però avevano qualche aspetto, come dire, interessante dal punto di vista antropologico, mostravano il lato oscuro di una umanità deviata, però non ci siamo mai spinti fino a quello che stiamo per affrontare oggi, perché oggi noi vi raccontiamo una storia di puro orrore, di perversione efferata, violenza inaudita, inutile, gratuita. La nostra protagonista è una donna che è la persona in assoluto più sanguinaria mai esistita al mondo, senza dubbi, nell'intera storia dell'umanità. È una persona morta da 400 anni, quindi innocua, però l'eco delle sue nefandezze, i racconti raccapriccianti di quello che era capace di fare, le sono sopravvissuti, arrivando fino a noi, si sono ammantati forse anche di un'aura di leggenda, sono stati aggiunti dei particolari forse per rendere la vicenda ancora più terrificante. Decine e decine di gruppi metal hanno parlato di lei proprio perché, come dire, è un'immagine perfettamente collimante con la parte truculenta del metal. Insomma, la nostra protagonista di oggi è una contessa, Elizabeth Bathory, soprannominata la contessa Dracula per la sua propensione a bere sangue umano. Io che di contesse me ne intendo, almeno sulla carta, vi posso assicurare che è stata la più terribile, sanguinaria, terrorizzante di tutti i personaggi, la cui storia di violenza, di soprusi, può essere arrivata fino a noi. Ha superato in cattiveria perfino Vlad l'Impalatore, il terrificante conte Vlad, che a detta di molti avrebbe ispirato Dracula di Bram Stoker. Molti invece ritengono sia nato nella mente dell'autore proprio ispirandosi a lei, a Elizabeth Bathory, la contessa sanguinaria. Vuoi che io rimanga nel tuo letto per poi sbattermi su e giù? È una storia veramente forte quella che sto per raccontarvi, a tinte forti. Elizabeth Bathory nasce nel 1560 ai piedi dei Carpazi, a Nyírbátor, in Ungheria. I Bathory sono una casata molto potente, molto ricca, nell'albero genealogico ci sono eroi di guerra, prelati importanti, addirittura un re, Stefano Bathory di Polonia. Siccome spesso i nobili si sposano tra loro per non disperdere i patrimoni, anche tra i Bathory ci sono molti deficit fisici dati dalla consanguineità, molte malattie mentali, epilessia, schizofrenia, follia. In quegli anni l'Ungheria e la Romania sono sconvolte da guerre sanguinose. Gli Asburgo e tutta l'Europa cristiana cercano di arginare l'avanzata dei turchi musulmani. Gli scontri più sanguinosi arrivano proprio nei territori dei due paesi, Ungheria e Romania. E per essere più tranquilli e protetti, i genitori di Elizabeth decidono di trasferirsi in Transilvania, dove hanno moltissimi possedimenti, castelli, villaggi interi, e dove soprattutto il principe è lo zio Cristoforo Bathory, un uomo violento e selvaggio. E in quella famiglia non c'è solo il principe transilvano a essere particolare. Il fratello di Elizabeth è un maniaco sessuale, aggredisce, diciamo così, donne ma anche bambine. E poi c'è la zia Clara, che è una nota lesbica, che gioisce solo quando può infliggere sofferenze terribili alle sue serve, viene incarcerata perché è ritenuta una strega. E poi c'è un altro zio che è un alchimista, un adoratore di Satana. Sono una famiglia del genere. E poi c'è la balia, che è dedita alla magia nera, che si dice usi sangue e ossa di bambini per fare incantesimi. Insomma, i modelli comportamentali con i quali si confronta la contessa non sono proprio quelli canonici. L'amore, la compassione, il rispetto per la vita altrui non sono contemplati. Questo diventa ancora più grave vista la loro posizione sociale. Ascoltate lo scrittore storico Tony Thorne, autore del libro su Elizabeth Bathory, La Contessa Dracula. La gerarchia sociale era fissata secondo schemi del tutto arbitrari e una persona del rango di Elizabeth aveva un enorme potere. Letteralmente potere di vita e di morte sulla gente comune. Gli abitanti dei villaggi di proprietà dei nobili potevano essere tormentati, torturati. Potevano persino essere uccisi nella più totale impunità da quelli che erano sopra di loro. Una persona come Elizabeth, che già porta dentro di sé dalla nascita il seme della follia che ha ereditato da questo terrificante albero genealogico, immaginate, lasciandola libera di agire come meglio crede perché ne ha diritto e anche per consuetudine, non può che fare presagire degli svolgimenti terribili. Insomma, si iniziano a delineare le premesse di quello che è un destino segnato, un racconto di vita assurdo, orripilante, scritto con il sangue. Il falco e il gabbiano. Elizabeth Bathory è una bambina difficile, soffre di convulsioni, è epilettica, ha frequenti scatti d'ira, mal di testa lancinanti che la rendono isterica e poi vive in un ambiente violento, crudo. Nel suo paese c'è la guerra, lei vede tornare a casa soldati terribilmente mutilati dai turchi, tutti sono induriti da una guerra atroce, vede orfani e vedove che muoiono di fame, insomma si abitua prestissimo a convivere con l'orrore, con la morte, con la devastazione e nessuno la protegge dall'assistere a spettacoli che una bambina non dovrebbe vedere, come quando a 6 anni le capita un fatto che le rimarrà impresso nella memoria per tutta la vita. C'è un gruppo di zingari che è stato invitato nel suo castello per intrattenere i nobili con uno spettacolo. Poi uno di questi zingari però viene condannato a morte per aver commesso un crimine, cioè si scopre che ha venduto i suoi figli ai turchi. Bene, alcuni soldati legano un cavallo a terra, gli tagliano il ventre, il condannato viene infilato all'interno del cavallo, il ventre viene ricucito per lasciare che il condannato muoia così, insomma una morte terribile, cruente. Immaginate cosa può scatenare uno spettacolo del genere nella mente di una bambina di 6 anni. E non è l'unico fatto a cui lei assiste da piccola. Il principe fa arrestare 54 persone sospettate, attenzione, solo sospettate di avere fomentato una rivolta dei contadini e sotto gli occhi di Elizabeth fa tagliare le orecchie e il naso a tutti, così da dissuaderli a tentare in futuro qualcosa di simile. Insomma, lei vive immersa nella violenza, nell'orrore, nel sangue che scorre letteralmente a fiumi sulle sue terre. Ascoltiamo ancora il biografo Tony Thorne. In Ungheria si professava il culto della ferocia e del coraggio aristocratico. C'era perfino una strana qualità che veniva riconosciuta ai nobili, chiamata karurum in ungherese. La capacità di inventiva nell'immaginarsi crudeltà da infliggere ai nemici, ma anche ai propri sottoposti. Quindi coniano anche una parola, karurum, per dire quanto sei bravo a torturare gli altri. Intanto Elizabeth arriva all'età di 11 anni e viene promessa in sposa al conte Ferenc Nazazi, che ha 18 anni e anche lui esponente di una famiglia potentissima, tra le più in vista del regno di Ungheria, e lui è considerato il più eroico dei combattenti ungheresi nonostante abbia appunto solo 18 anni. Comanda le truppe reali, è soprannominato il Cavaliere Nero per la sua grande ferocia in battaglia. Quando Elizabeth ha 15 anni, peraltro è anche diventata bellissima, i due si sposano, lei va a vivere nel castello di lui, siamo nel 1575. Il castello è il famigerato castello di Castice, che diventerà presto il castello degli orrori. Intanto bisogna dire che Elizabeth, quando sposa Ferenc, non è già più vergine, perché l'anno prima, a 14 anni, ha avuto un figlio da un contadino di uno dei suoi villaggi. Questo è un dato importante, ci fa capire che insomma lei è una ragazza piuttosto disinibita, fa sesso con uomini di rango inferiore per il gusto di farlo, non si preoccupa che il fidanzato possa decidere di non sposarla più, sa che comunque la strada è già segnata. Naturalmente il bambino non si sa neanche che fine abbia fatto, lei diventa castellana a 15 anni, si trova bene col marito, avranno 5 figli, Anna, Ursula, Andreas, che muoiono prematuramente, poi Catarina e Paul, che diventerà il principale erede della immensa fortuna della madre. E soprattutto Elizabeth e Ferenc si trovano d'accordo, sono una coppia che va d'accordo, perché gestiscono allo stesso modo i loro sottoposti, perché anche Ferenc è un violento, un perverso, il suo divertimento più grande è prendere una giovane serva, denudarla completamente, cospargerla di miele, legarla nei pressi delle sue numerose arnie per vedere come le api la possono pungere in tutto il corpo, insomma un carorum clamoroso. Ma lei è ancora più carorum del marito, perché sfrutta il freddo dell'inverno per far morire congelate le vittime, tenendole nude nella neve, versando continuamente loro acqua gelata addosso. Insomma, non c'era la televisione, non c'era internet, e questi signorotti si divertivano come potevano, ma con grande fantasia. Ferenc Nadasdi è lontano da casa, è in guerra a combattere i turchi, e insomma la responsabilità del castello in sua assenza è nelle mani di Elizabeth, ma anche la responsabilità dei villaggi e di tutte le persone che ci abitano. E lei si annoia, è narcisista, è vanitosa, si cambia anche 6 volte al giorno, passa ore e ore a mirarsi nello specchio, utilizza unguenti, creme preparati per mantenere la sua pelle fresca e levigata, insomma è terrorizzata dall'idea di invecchiare e pretende che chiunque la incontri elogi la sua avvenenza, però si sente sola e così inizia a frequentare la zia Clara, ve la ricordate, l'abbiamo citata all'inizio, quella lesbica che organizza orgie durante i quali tortura le sue serve, e su suggerimento della sua balia Elizabeth comincia a interessarsi di magia nera, si procura una pergamena fatta di amnio, la membrana che avvolge il feto nell'addome della madre, e su questa pergamena viene scritto col sangue un incantesimo del dio Isten. Quando la tua devota è in pericolo, manda in soccorso un esercito di 99 gatti, poiché dei gatti tu sei il Signore. I 99 gatti arriveranno con gran velocità e mangeranno il cuore del nemico, così della tua devota sarà salva la vita. Bene, l'iconografia popolare, poi questi 99 gatti più tardi li ridurrà a 44 e con scopi diversi. È una pergamena dalla quale lei non si separa mai, le verrà trovata addosso la sua morte. E poi la contessa si circonda di personaggi inquietanti, discutibili, direi, la sua dama di compagnia Dorotea, Sentes detta Dorca, la lavandaia Catherine, il fedele servo Fisco, che è un nano pervertito e pedofilo, insomma è una corte dei miracoli terrificante che segue la contessa dovunque lei vada e a secondo ogni suo desiderio partecipa con lei a sanguinosi rituali di magia, di alchimia, di stregoneria. Di questa intensa attività si ha evidenza nella fitta corrispondenza che lei tiene con il marito lontano, gli confida tutte le nefandezze che compie al castello e gli racconta quello che ha imparato. Fisco mi ha insegnato un nuovo incantesimo, una tecnica deliziosa. Prendi una gallina nera e la percuoti a morte con una verga bianca, raccogli il suo sangue e tenti di imbrattare con esso il tuo nemico. Se non riesci a farlo, sporca di quel sangue un suo vestito. Gli capiterà presto una grave disgrazia. Si scambiano molte lettere, i due coniugi separati, però non è che sia proprio amore totale, perché in assenza del marito lei ha molti amanti, qualche uomo, soprattutto tantissime donne, donne che dopo essere state con lei fanno una brutta fine, ovviamente. E la fanno anche gli uomini, per carità. Nel 1601 Ferenc Nadasdy si ammala, perde una gamba per la cancarena, dopo 3 anni passati a letto muore la contessa e vedova. A 44 anni è ricchissima, potentissima, erede di una fortuna di possedimenti che si estendono dalla Transilvania all'Austria. A questo punto Elizabeth Bathory è all'apice del proprio potere, però è anche all'inizio del suo declino fisico, perché nel 500, insomma, avere 44 anni vuol dire essere già sulle soglie della vecchiaia, e lei dà via una progressione delittuosa che farà rabbrividire e rendere increduli tutti i testimoni che ne verranno a conoscenza. Il falco e il gabbiano. Puntata sui generis oggi, una puntata terrificante, e anche se ci stiamo addentrando soprattutto negli oscuri meandri della mente e della vita di Elizabeth Bathory, considerata la più efferata serial killer della storia dell'umanità, soprannominata la Contessa Dracula, e ha vissuto a cavallo tra la fine del 500 e l'inizio del 600 in Transilvania, e ha compiuto dei crimini che ne testimoniano una crudeltà veramente senza pari. Quando nel 1604 lei rimane vedova del marito, il conte Ferenc Nadasdy, aggiunge al grande patrimonio di famiglia l'eredità del ricchissimo coniuge. Insomma, è una delle persone più potenti dell'intera Ungheria, e non eredita solo un immenso potere economico, ma anche il diritto di vita e di morte sugli abitanti di tutti i villaggi di sua proprietà. Tutto questo potere concentrato in una donna malata, malata nel cervello, affetta da devianze sessuali, sanguinaria, crudele di animo, di educazione, crudele per i traumi subiti e per la genetica, insomma, porta tutto questo alla peggiore delle realtà. Nei domini di Elizabeth Bathory la violenza, il sopruso, l'orrore, la morte sono abituali, regnano sovrani. Attraverso i suoi fedeli servitori lei riesce sempre ad avere nuove vittime provenienti dai suoi villaggi, povere ragazze attirate al castello con la scusa di trovare un lavoro come cameriera, cuoca, dama di compagnia. E può sembrare strano che dopo le prime sparizioni nel nulla delle fanciulle entrate nel castello ci siano altre ragazze disposte ad andarci, e il motivo ce lo spiega ancora il biografo di Elizabeth, Tony Thorne. Si fa fatica a credere che qualcuno volesse andare a lavorare di sua spontanea volontà in una casa dove c'erano stati sospetti della morte anche di una sola fanciulla. Ma la situazione nella quale versava la maggior parte della gente in Ungheria era talmente disperata che l'unico modo per garantirsi la sopravvivenza era di vendere i propri figli come servitù nelle grandi case. Era proprio quello che accadeva. E insomma, Elizabeth non fa fatica a trovare delle vittime per i suoi obiettivi, e appena le ragazze arrivano al castello vengono rinchiuse nei sotterranei, dove subiscono ogni sorta di tortura prima di morire. Tentare la fuga è un affronto intollerabile. In una lettera alla zia, Elizabeth racconta di aver dovuto punire una bambina di 12 anni che era riuscita a scappare, che era stata ripresa nei dintorni del castello, e lei, con l'aiuto del nano Fisco, l'aveva fatta entrare in una stretta gabbia di metallo che aveva poi sollevato da terra tramite delle carrucole, spinta contro dei paletti appuntiti fino alla morte della bambina. E questa è solo una delle terribili torture che Elizabeth Bathory infliggerà per anni a centinaia di giovani fanciulle. E più sono giovani e belle, più lei si accanisce su di loro, perché è evidente, perché vuole distruggere quella bellezza e quella freschezza che lei ormai non possiede più. Elizabeth è terrorizzata al pensiero di invecchiare. Ci sono alchimisti che le preparano pozioni a base di erbe che dovrebbero mantenerla giovane in eterno, però lo specchio non mente, lei invecchia come tutti, però un giorno accade qualcosa destinato a rendere gli orrori del castello, se possibile, ancora più spaventosi. Un giorno una delle serve addette alla cura della contessa, mentre la sta pettinando, le tira per sbaglio i capelli. La contessa ovviamente la colpisce con violenza sul volto. Alla serva esce il sangue dal naso, alcune gocce di sangue finiscono sulla mano della contessa e lei, dopo essersi pulita, crede di vedere la sua pelle miracolosamente ringiovanita in quel punto preciso, e qui cominciano i guai veri, perché lei ovviamente è sconvolta da questo fatto, fa chiamare gli alchimisti, i quali per compiacerla le raccontano che la cosa è vera e le fanno credere che un loro paziente, un anziano aristocratico, abbia tratto grande giovamento dal sangue di una giovane al suo servizio. La pelle raggrinzita del vecchio è rimasta giovane e elastica, e qui si al disastro, perché per Elizabeth si apre un mondo nuovo. Beh, se il sangue delle giovinette fa questo effetto, lei di sangue ne ha a disposizione, villaggi interi di sangue. Elizabeth Bathory, ossessionata dalla sua immagine allo specchio, atterrita dall'idea di vedere sfiorire il suo fascino, si convince che il sangue delle giovani fanciulle abbia il potere di farla ringiovanire. Unisce l'utile al dilettevole, perché soddisfa la sua indole crudele, seviziando e uccidendo le sue vittime, cosa che avrebbe fatto comunque, però ne ricava il sangue che destina alla sua cura di bellezza. La terapia è questa: immergersi completamente nel sangue delle vittime, che vengono appese a testa in giù sopra una vasca e poi sgozzate. E poi lei quel sangue di giovane vergine comincia anche a berlo, facendo nascere la leggenda secondo la quale lei non solo è una strega ma anche una vampira. Poi la terapia però non la soddisfa, perché per quanto cerchi vittime sempre più giovani e belle, continua inesorabilmente, ovviamente, a invecchiare. A questo punto, come spesso accade ai serial killer, il suo delirio di onnipotenza le fa superare un limite che anche una come lei non avrebbe dovuto valicare. Ascoltiamo il professor Raymond McNally, autore del libro Dracula era una donna, scritto su di lei. She made a big mistake. Commise un errore enorme. Fin quando le sue vittime provenivano dai villaggi slovacchi, dalle famiglie dei contadini, non importava a nessuno. È un dato di fatto. Avrebbe potuto andare avanti in eterno. Ma lei prese la figlia di un prelato, un prete protestante ungherese. Grande errore. Quando la notizia arrivò alle orecchie dei nobili, non poterono tollerarlo. Uno dei nostri? No. One of their own, you know? E perché lei commette un errore così ingenuo? Beh, perché nella sua mente distorta si fa largo il pensiero che il problema era la qualità del sangue, e quindi che lei, che era di nobile stirpe, non poteva trarre giovamento dal sangue di una plebea, di una qualsiasi contadinella. Ci vuole sangue nobile di stirpe ungherese. E così istituisce nel suo castello un'accademia per l'educazione delle fanciulle provenienti dalle famiglie agiate e nobili. Si crea, diciamo, in casa un vivaio di prede fresche di sangue aristocratico. Quindi il suo buon nome, il suo lignaggio, il suo potere sono tali che le prime ignare allieve iniziano ad arrivare al castello degli orrori. Ma quando le ragazzine, stiamo parlando di bambine di 12 anni, quando le ragazzine cominciano a sparire e di loro non si sa più nulla, arrivano le denunce e arrivano direttamente a Mattias II, re d'Ungheria. È Natale del 1610, il re Mattias è turbato, le voci di quello che starebbe accadendo nel castello di Castice sono allucinanti, però c'è anche un lato positivo in tutta questa faccenda per il re, perché lui deve molti soldi alla contessa, soldi che aveva avuto in prestito dal marito di lei e che ora lei rivuole indietro. Quindi se le accuse fossero vere, ci sarebbe un'ottima scusa per liberarsi di una creditrice così potente. Insomma, vedete che mondo di persone per bene. Però il re deve stare attento, perché è pericoloso mettersi contro la contessa, che è imparentata con gente importante, col re di Polonia per esempio. più. Così lui opta per una missione segreta, raduna una squadra di, diciamo, di intelligence, uomini di fiducia che vanno a ispezionare il castello senza farsi scoprire, per beccarla con le mani nel sacco, per beccarla in flagrante. E grazie a una corrispondenza tra il re e il primo ministro a capo della spedizione, arriva il resoconto di quella terribile notte del 29 dicembre. Gli agenti segreti del re stanno agendo con circospezione, sono in tanti, sono soldati abituati alla guerra, però non sono tranquilli perché sanno che la contessa è un'esperta di magia nera, temono qualche incantesimo, si fermano nel villaggio più vicino al castello, parlano con dei contadini che cominciano a raccontare, raccontano di urla atroci che si sentono ogni giorno arrivare dalla sinistra abitazione della contessa, raccontano delle decine di ragazze scomparse misteriosamente. E quando la squadra del re riesce a entrare nel castello, deve constatare che le dicerie sono tutte verità. Nella prima grande sala, sul pavimento di pietra, giace una giovane donna seminuda, completamente dissanguata. Un po' più avanti c'è un'altra ragazza incatenata a una colonna, frustata a sangue, con segni di ustioni su tutto il corpo. E poi nei sotterranei ci sono diverse prigioni nelle quali sono rinchiuse donne e bambine in uno stato drammatico, e ovunque il pavimento è intriso di sangue. La contessa viene arrestata, finalmente, in attesa del giudizio, viene imprigionata nella sua stessa abitazione e viene piantonata da un esercito. Lei si difende, dice che le morti erano avvenute per cause naturali, però una più accurata ispezione rivela corpi ovunque, ossa, resti umani, vestiti, effetti personali delle ragazze nobili che erano sparite. E sì, finché tocchi la plebe tutto passa senza problemi, ma quando tocchi i nobili, lì è il disastro. Il disastro diventa un processo che comincia subito il 2 gennaio del 1611. La contessa può non presenziare un privilegio della sua casta, però ci sono i suoi fedelissimi, i servitori, che forse proprio perché lei non è in aula rivelano le atrocità più terrificanti che hanno commesso regolarmente. Arrivano testimonianze una dietro l'altra, poi ci sono i racconti delle superstiti, il conteggio delle vittime, che è impossibile, si va da 300 a 600 persone. I servitori della contessa, per una legge che era molto in voga fino al 700, la legge del taglione, subiscono le stesse terrificanti torture che erano soliti infliggere alle loro vittime, poi vengono giustiziati. Quelli erano servi. Cosa bisogna fare con Elizabeth? È più difficile deciderlo. La contessa Elizabeth Bathory viene condannata ad essere murata viva in una stanza nella torre del suo castello. Verranno murate le finestre, murata la porta. Un unico foro le consentirà di ricevere il cibo quotidiano. E non potrà più parlare con nessuno. Insomma, viene salvata dalle sue origini nobiliari e riceve una condanna che però forse è anche peggiore della morte. Quattro mura con la sola terribile compagnia di se stessa e anche della sua follia. Non resiste a lungo. Dopo tre anni, nel 614, all'età di 54 anni, la contessa sanguinaria muore e le guardie se ne accorgono perché notano che i piatti della cena non sono stati toccati. Nasce subito il mito della contessa Dracula, l'unica donna ad avere praticato il vampirismo, il cannibalismo. La leggenda viene tramandata fino ai giorni nostri e vengono scritti libri, biografie, romanzi, molti film, tra i quali i Racconti immorali del 74, dove Elizabeth è interpretata da una inquietantissima Paloma Picasso, serie televisive, le canzoni che parlano di lei non si contano, soprattutto nella sfera heavy metal, horror metal, no? Insomma, c'è una storia che è un incredibile mix di verità, di leggenda, però le lettere, i documenti relativi al processo testimoniano comunque una efferatezza tale da poter considerare la contessa Elizabeth Bathory il serial killer più violento, più prolifico, più mostruoso e fantasioso nelle sue atrocità dell'intera storia umana. Ci sono storie di persone che hanno saputo volare in alto e storie di persone che si sono avventurate fino ai più profondi abissi, come la nostra contessa Elizabeth Bathory. Una storia terribile che però andava raccontata. Ognuno di noi nella vita ha delle storie da raccontare, ce le ho anch'io, e se volete che io racconti la storia che volete voi, scrivete al Falco il Gabbiano @radio24.it, oppure al nostro sito, oppure venite sul mio Twitter, Facebook, sui miei social, sui social del Falco il Gabbiano, insomma lo sapete, se volete mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Simona Capodanno. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.